darf zuerst beginnen. Meine Damen und Herren, wenn ich hier das Publikum mir anschaue, so ist mir soeben die Idee gekommen, ob es nicht vielleicht am besten ist, wenn ich sofort Italienisch spreche. Ist das gestattet? Mein Italienisch ist, glaube ich, gut verständlich, weil ich langsam spreche. Ich habe sehr viele Zitate, die allerdings meistens aus dem Kopf sind. Die werde ich also Deutsch machen, besonders wenn es sich um Gedichte handelt und Epigramme von Grillparzer. Aber ich glaube, es ist fast besser, da hier ja alle Anwesenden, ich sehe niemanden hier, der nicht Italienisch versteht, so glaube ich, wird man mir das nicht als, wo ist der Herr Tiroler, die Tiroler greifen mir sowieso so viel an, dass sie mir also das ruhig auch noch angreifen können, ja. Wie? D'accordo, benissimo. Allora parlerò in italiano dal principio per risparmiare il tempo della traduzione e se ci sono delle citazioni che sono per la maggior parte citazioni non proprio precise perché le ho dimenticato un mio materiale a Vienna, ma quasi precise perché le conosco abbastanza bene e se sono in versi li dirò naturalmente in tedesco. Comincio con due citazioni. Uno è dal diario di Eduard von Bauernfeld. Eduard von Bauernfeld, notissimo, adesso completamente o quasi completamente dimenticato, ma allora notissimo come geografo, autore del Burgtheater, impiegato delle stende, un po' il busybody intellettualità degli intellettuali viennesi che avrà poi una parte molto importante, rilevante nella preparazione della rivoluzione del 48. Allora dunque questo Bauernfeld scrive nel suo diario nella primavera del 1830. La politica europea si avvicina di giorno in giorno. È urgente di prendere parte alle vicende del tempo. Es ist höchste Zeit, an den Zeitereignissen teilzunehmen. Se vince il liberalismo in Francia, questo avrà anche delle ripercussioni in Austria. Cioè, siegt der Liberalismus in Frankreich, kann dies auch in Österreich nicht ohne Folgen bleiben. Era poche mesi prima della rivoluzione di luglio, della caduta dei Borboni, della rivoluzione di luglio del 30. Una citazione. 50 anni dopo, siamo nel 1880, in quest'anno, un giovane intellettuale che sarà poi anche autore del Burgtheater, sarà anche molto vicino come tipo a Bauernfeld, perché in tutt'altra epoca, il giovane Hermann Bahr, B-A-H-R. Allora Hermann Bahr, figlio di un notaio liberale di Linz, comincia i suoi studi all'Università di Vienna. Ritorna dopo il primo semestre a Linz, nella casa paterna, e porta la notizia «Der Liberalismus ist tot». Il padre si arrabbia, e lui scrive dopo, nel 1911 Hermann Bahr l'ha descritto. Hermann Bahr, del resto, forse posso ancora dire, è noto anche come uno dei tre fondatori del Festival di Salisburgo dopo la Prima Guerra Mondiale, insieme a Hugo von Hofmannsthal e a Max Reinhardt. Allora Hermann Bahr descrive nell'11 poi nelle sue memorie questa scena. Il padre si arrabbia, vanno su e giù nel piccolo giardino e dice: impossibile, che cosa hanno fatto con te? È impossibile che il liberalismo sia morto, ma che cosa hanno fatto di mio figlio? E aber ich, meine bunte Mütze schwenkend hinter ihm her, rief: Der Liberalismus ist tot, eine neue Zeit ist angebrochen, jetzt kommen wir. Allora il poi continua: Und dann begab es sich, dass Freunde meines Vaters kamen. E poi venivano molti amici del mio padre, tutti vecchi liberali, tutti che avevano dei figli all'Università di Vienna, che erano venuti adesso nelle prime vacanze, e tutti dicevano: il liberalismo è morto. E tutti questi vecchi liberali dicevano: ma come mai, cosa hanno fatto con i nostri figli? E allora uno dice, uno savio dice: questo è il Lauf der Zeit, questo è il corso del tempo, la gioventù vuol sempre diventare felice in modo diverso. Allora si arrabbiò mio padre e disse: il liberalismo non può invecchiare, perché proprio il rigenerarsi continuamente, sich immer zu verjüngen, è il suo compito e la sua missione. E se una gioventù rinega il liberalismo, rinega se stesso. Wenn diese Jugend sich vom Liberalismus lossagt, so sagt sie sich von sich selber los. Das ist das Unbegreifliche. Questa è la cosa incomprensibile. E allora, e ancora per molto tempo, dice poi, questi vecchi signori stavano seduti insieme e continuavano a dire: Was hat man mit unseren Söhnen gemacht? Was hat man mit unseren Söhnen in Wien gemacht? Allora, fra questi due termini, fra questi due termini, fra il 1830 e il 1880 si compie la parabola dell'ascesa e della decadenza del liberalismo austriaco. Naturalmente le radici sono molto più indietro, più profonde, e la decadenza avviene poi lentamente, vedremo poi alla fine a che punto è, se è una decadenza definitiva. Ad ogni modo, in quel periodo di fra il 30 e il 80 è l'ascesa e la decadenza. Anche bisogna naturalmente tenere presente che il liberalismo come movimento politico entra in scena la prima volta nella rivoluzione del 48 e è per la prima volta sconfitto. Una sconfitta terribile, quasi, che sembra quasi definitiva. E la nuova ascesa, la nuova vittoria del liberalismo austriaco avviene soltanto in conseguenza di due sconfitte politiche militari dello Stato, cioè la sconfitta del 59 e la sconfitta del 66. E d'altra parte il costituzionalismo, abbiamo parlato molto del fatto che liberalismo e costituzionalismo sono come due gemelli. Il costituzionalismo ha la prima vittoria e sconfitta nel 48-49, una nuova ascesa dopo questa sconfitta nel 60-61 con il ottobre diplom e febbraio patent, e definitivamente, appunto dopo la seconda sconfitta, nel 1867 con le famose Dezembergesetze, le leggi di dicembre, che, come dice giustamente l'amico e collega Sturz a Vienna, in fondo si dovrebbe chiamare Costituzione di dicembre, Dezemberverfassung del 67. E così la liberale era, l'era liberale, nella storia austriaca, se aprite qualsiasi manuale, libro, si vede delle volte, si comincia già col 61, ma veramente la l'era liberale nel senso vero e proprio comincia col 67. E infatti l'era liberale della storiografia austriaca è dal 1867 al 1868-69, con la caduta del governo di Adolf Auersperg. Brevissimo tempo, un periodo molto breve, benché molto importante, Auersperg, Adolf Auersperg, il secondo governo Auersperg. E dentro a questo brevissimo periodo c'è un interludio conservatore federalista in quei pochi mesi del 71 col governo, dal febbraio all'ottobre del 71, col governo Hohenwart o Hohenwart-Scheffle, e avvenimento più importante di tutta la, quasi si potrebbe dire, per la decadenza del liberalismo, il grande crollo della borsa, il grande crash, il grande Börsenkrach del 1873, che ha scosso quasi per sempre il mito del liberalismo economico, il prestigio del, del liberalismo economico. Cioè un periodo molto breve, dall'altro lato, come vedremo, l'elemento liberale rimane in un certo senso presente sulla scena austriaca fino adesso, e adesso i tre partiti che esistono in Parlamento si discutono chi è più liberale, il liberalismo, e si contendono l'eredità del liberalismo. Ma su questo tema, questo argomento toccheremo alla fine. Questo è uno degli aspetti. Altro aspetto che connesso con questo, il liberalismo non ha prodotto grandi figure in Austria. Non ci sono, se uno mi domanda chi erano i capi del liberalismo austriaco, io potrei nominare un grande numero di onorevoli, notabili, personaggi intelligenti, di grande cultura, scienziati, amministratori, sindaco di Vienna, ministri meritevolissimi, ma nessuno di primo piano. Mentre gli altri movimenti, quello tedesco nazionalista con Schönerer, quello socialista Viktor Adler, quello cristiano sociale Luega, hanno tutti i loro protagonisti, mancano assolutamente i veri capi, un grande leader del liberalismo austriaco. Manca anche, e il liberalismo austriaco ha degli eroi, ma gli eroi sono tutti membri della casa Asburgo-Lorena. Perché il più grande eroe del liberalismo ottocentesco è Giuseppe II. Si può dire che il vero leader spirituale della rivoluzione del 48 è Giuseppe II, ma non il Giuseppe II storico, che era tutt'altro che un liberale, ma il Giuseppe II dei liberali austriaci. Cioè un mito di Giuseppe II, in un certo senso si può paragonare al famoso mito di Pio IX nella rivoluzione del 48, un Giuseppe II liberale che non era mai esistito, ma Giuseppe II, il Volkskaiser, il portatore di luce, l'anticlericale, Josef der Deutsche, il tedesco, l'uomo della libertà di stampa, eccetera, ancora nell'ultimo momento della disperata difesa di Vienna contro gli austriaci, cioè contro gli eserciti di Windischgrätz e di Jelacic, quando gli studenti e gli operai viennesi combattono sotto la bandiera nero, rosso, oro, cioè la bandiera dell'unità tedesca contro gli austriaci. Ci sono dei volantini dove lo spirito di Giuseppe II scende e esorta gli studenti a combattere contro gli austriaci, una cosa che Giuseppe II non avrebbe mai fatto perché era uno dei creatori del militarismo austriaco, se così si può dire. C'è uno studio in questo campo di Englianoci, un vecchio studio più di 40 anni fa, sul mito di Giuseppe II nella rivoluzione del 48. Lo stesso è vero per Giuseppe II, non era mai un liberale, non era costituzionalista, era un rappresentante dell'assolutismo illuminato, e anche Josef da Deutsche, ma per il movimento nazionale liberale Giuseppe II, l'uomo che si era opposto alla curia romana, quell'antiromanesimo che ha in fondo portato la vendetta per Canossa, perché Pio VI è venuto a Vienna a supplicare, così era la rivincita tardiva della nazione tedesca contro il papato romano, latino. Anche questo, naturalmente, Giuseppe II è stato imperatore del Sacro Romano Impero, è stato incoronato a Francoforte, ma non è mai stato ha voluto la lingua germanica per ragioni razionalistiche, come per il suo centralismo, ha voluto abolire in Ungheria la lingua d'ufficio latina e sostituirla con quella più moderna tedesca, ma non è stato mai un nazionalista germanico. Ma il mito di Giuseppe II è uno di questi eroi. Poi l'arciduca Giovanni. Naturalmente l'arciduca Giovanni, che era una figura idealizzata per il liberalismo austriaco e tedesco. Noi abbiamo parlato l'altra volta dell'arciduca Giovanni eletto luogotenente dalla Assemblea di Francoforte, che è andato a Francoforte, che tutto questo anno sempre si è fatto dipingere col nastro nero, rosso, oro, come uno studente qua sopra il petto, vestiva naturalmente quasi sempre in borghese, la moglie borghese, la Anna Bloch, fatta poi baronessa di Brandhof e poi contessa di Merano, ma salutata a Francoforte come la prima donna tedesca, una donna borghese, eccetera, tutto. E lui, benché vecchio in quel periodo, ha detto una volta a un pubblicista, il futuro sta nella Repubblica. Insomma, lui considerato proprio un capo ideale del liberalismo austriaco. Altro, per esempio, Massimiliano, il fratello cadetto di Francesco Giuseppe, anche lui è un po' mitizzato dal liberalismo austriaco, e alla fine poi il principe ereditario Rodolfo, quello che poi si è ucciso a Meierling. C'è dunque nella Casa d'Asburgo certamente una certa tradizione liberaleggiante o liberale. L'unico vero, autentico, forse no, a parte l'arciduca Giovanni. L'arciduca Giovanni era un convinto autentico liberale, ma il più autentico liberale era stato Pietro Leopoldo, cioè Leopoldo II, il padre dell'arciduca Giovanni. E c'è una tradizione liberale nella corte, e questo è stato echeggiato anche si sapeva un po' questo, specialmente nei circoli altilocati della burocrazia, che c'era, al contrario delle tendenze dell'imperatore Francesco e poi di Francesco Giuseppe, nella famiglia asburgica sempre questa tradizione Pietro Leopoldo, che in fondo era stato il primo monarca europeo di vere convinzioni costituzionali, ma insomma questo, la burocrazia austriaca non l'ha voluto sapere, poi era stata una certa reazione contro Giuseppe II, e come dico, Giuseppe II è il santo secolarizzato per il liberalismo austriaco. Questo strano fatto si vede anche, per esempio, si può anche constatare che non esiste a Vienna, a parte un piccolissimo monumento per un sindaco liberale, Andreas Zelinka, non esiste nessun monumento per nessun politico liberale in Austria. Socialisti sì, naturalmente imperatori, generali, eccetera, ministri, cattolici, capi di governo socialista o cattolico, ma nessun monumento per un liberale. Lo stesso per la storiografia: esistono due libri, stranamente tutti e due apparsi nello stesso anno, 1955, sul liberalismo. Uno è di un professore universitario, ecclesiastico, molto cattolico liberale, Karl Eder, era professore all'Università di Graz, prelato pontificio, uomo con molta comprensione per il liberalismo, ma certamente non un liberale. L'altro è di un tedesco, Georg Franz, anche apparso nello stesso anno, anche Georg Franz, a parte il fatto che non era austriaco, non era proprio, credo, non so se neanche se vive ancora o no, Georg Franz, no, Franz, nessuno lo sa, ad ogni modo non è proprio neanche lui di convinzioni veramente liberali. E qui è già finito. Adesso ci sono alcuni lavori, come questo lavoro, per esempio, sul Kulturkampf austriaco, se si può chiamare così, Verfassung oder Konkordat, del mio assistente Karl Wozelka, sui Kampf um die Religionsgesetze nell'anno 1868, con dietro caricature anche del periodo, e lì ci sono alcune delle notabili di quelle teste dei notabili ministri del Bürgerministerium, cioè di questi liberali che sono completamente, diciamo, sconosciuti alla pubblica opinione, non hanno questa ogni persona colta in Italia conosce almeno i nomi di Minghetti o di Ratazzi o naturalmente di Cavour, ma questi sono quasi completamente dimenticati. Ora, una delle ragioni per questa debolezza del liberalismo austriaco sarà proprio da trovare nelle sue radici, nella grande differenza delle sue origini, e vorrei qui sottolineare tre gruppi. La corrente più importante, la radice più forte del liberalismo austriaco è la tradizione giuseppina, è la tradizione del assolutismo illuminato, è la tradizione di quella burocrazia giuseppina nata come ceto sociale, come gruppo compatto di una certa etica e di convinzioni ben radicati dalle riforme amministrative di Maria Teresa e di Giuseppe II e Leopoldo II, cioè di quel breve periodo della seconda metà del Settecento. Quella burocrazia che continua a governare lo Stato per tutto l'Ottocento e fino alla fine della monarchia. Ora, questi giuseppini, questi burocrati giuseppini, io ho chiamato quel liberalismo il Hofratsliberalismus, il liberalismo dei consiglieri aulici. Questo Hofratsliberalismus è si può discutere se si tratta qui di vero liberalismo. Perché dal vero liberalismo, quel giuseppinismo o post-giuseppinismo, si distingue anzitutto per il fatto che anche questo Hofratsliberalismus dei Josephine, come Giuseppe II a suo tempo, non vogliono sentire di costituzioni. Non sono liberali in quanto non sono costituzionali. Questa burocrazia anche viene chiamato non liberali ma Josefina, e il poeta Grillparz, consigliere aulico e direttore dell'archivio di finanze, il Hofkammerarchiv, che per esempio attorno nella metà del secolo chiama il concordato del 1855 eine blutige Ohrfeige für uns alte Josefina, uno schiaffo sanguinoso per noi vecchi giuseppinisti, o giuseppisti, come si vuol dire. Questa burocrazia, dunque, illuminata, imbevuta dalle tradizioni dell'illuminismo, ma anche del romanticismo, della grande filosofia idealistica, della letteratura classica di Weimar, di Goethe e di Schiller e di Lessing ancora prima, questa burocrazia colta vuol fare, secondo questi, dirigere lo Stato secondo il principio attribuito, ma mai apertamente professato, da Giuseppe II: tutto per il popolo, niente attraverso il popolo. Alles durch das Volk, nichts für das Volk, cioè alles für das Volk, nichts für das Volk. Tutto per il popolo, certamente umanitaria, illuminata e fortemente gelosa della dignità dello Stato, anche e anzitutto di fronte alla Chiesa. Questa burocrazia nel senso più largo, che comprende gli impiegati di Stato, la maggior parte del corpo degli ufficiali dello Stato, specialmente nelle armi tecniche, nella fanteria, eccetera, mentre l'aristocrazia rimane, il dominio dell'aristocrazia rimane la cavalleria, e anche questo lì c'è poi uno sviluppo durante tutto il secolo, cioè specialmente dopo il 66, il ritiro dell'alta aristocrazia dai posti di comando nell'esercito, mentre vengono su i cosiddetti Einsilbigen Generäle, cioè i generali monosillabi, che vuol dire anche taciturni, è un gioco di parole, perché tutti avevano nomi molto brevi, se non si chiamavano più Auersperg o Windischgrätz, ma Kuhn, John, Peck, Pop, eccetera. Ad ogni modo questi generali di origine borghese. Poi il clero secolare, pagato dallo Stato, chiamato spesso scherzosamente gli impiegati in abito nero, di Beamten in schwarzen Rock, perché servivano come impiegati sussidiari, perché avevano come Standesbeamte, cioè come la Pfarrkanzlei, per esempio. Una cosa importante di ogni parrocchia era la Pfarrkanzlei, cioè l'ufficio della parrocchia dove si tenevano i registri, eccetera. Così il clero austriaco di formazione in gran parte giuseppinista, ma ad ogni modo dopo il periodo delle riforme giuseppine, la istituzione del fondo di religione, eccetera, è una specie di colonna che insieme con gli ufficiali e con gli impiegati sostiene veramente lo Stato. Questa burocrazia, questo liberalismo di consiglieri aulici, questo Hofrats liberalismo, liberalismus è un non vuol sentire di costituzioni, non è un nemico tradizionale del liberalismo aristocratico, delle diete locali, del ständisch aristokratischen liberalismus. È contrario all'aristocrazia feudale, tradizionalmente dalle sue origini, ed è anche contrario alle costituzioni. Il classico esempio, che per fortuna ci ha lasciato una mole enorme di scritti e poesie, è il maggior poeta austriaco, che è il Hofrat Franz Grillparzer, che ho già nominato. Si può discutere se è veramente il terzo grande poeta di lingua tedesca dopo Schiller e Goethe, come drammaturgo con i suoi drammi, ma si deve certamente ammettere che forse il maggior poeta politico di lingua tedesca fino ai nostri tempi, perché come epigrammista, eccetera, che ha accompagnato tutti gli sviluppi della storia austriaca, germanica, europea, dagli anni 20 e 30 fino alla sua morte, avvenuto nello stesso anno di Mazzini, di 1872, sono una miniera veramente. Va bene che lui li ha messi sempre nella sua scrivania, ma molti di quelli hanno circolato segretamente e sono molto importanti questi suoi epigrammi, quelle sue poesie. Ed è tipico che lui, per esempio, con tutta l'opposizione che lui aveva contro il sistema di Metternich, quando saluta per la prima volta, nel principio saluta per esempio un libro, il primo libro di poesia, di lirica politica della storia austriaca, che è quelle Spaziergänge eines Wiener Poeten di Anastasius Grün, cioè che veramente Anastasius Grün era un pseudonimo, era il conte Anton Alexander von Auersperg. Allora Grillparzer lo saluta al principio, ma subito dopo lo prende in giro, dice, lo chiama il Freiheitspaganini, il Freiheitspapagei, che immer wieder wiederholt, ich frei, du frei, die Freiheiten, poi uno specialmente cattivo, dove dice, ein Graf und Liberal, sein Rentamt mag mich dauern, doch schließt vom großen Freiheitsschmaus der Gnädige die Ärmsten aus, die Ärmsten seine Bauern. Cioè, un conte è liberale, mi fa pena il suo ufficio, sein Rentamt, il suo ufficio di amministrazione, però il caro signore esclude dal grande convivio di libertà i più poveri, cioè i suoi contadini. Cioè questo attacco, lo stesso attacco che è stato fatto anche da parte clericale contro quel conte liberale e poeta. E in un altro dei suoi scritti Grillparzer dice: io non sono un amico delle costituzioni. Rivolta anche contro altri rappresentanti appunto di quel liberalismo aristocratico feudale, di origine feudale, di questo ständischen liberalismus. E solo in un momento molto curioso, negli anni 50, che si trova una certa difesa delle costituzioni, ma una difesa indiretta, cioè che lui in occasione del concordato del 55, lui scrive una poesia anche molto cattiva, parlando di Francesco Giuseppe, dice: was er seinen Völkern versprach, hat er ganz leicht gebrochen, doch wer zu brechen schmach, was er seiner Kindsfrau versprochen. Cioè, Francesco Giuseppe molto facilmente ha è diventato pedifrago ai suoi popoli, cioè ha richiamato le costituzioni promesse, però quello che ha promesso alla sua bambinaia, cioè al cardinale Rauch, che era il suo insegnante di religione, quello naturalmente non lo può rompere, qui deve essere mantenere la parola, cioè introdurre concludere il concordato. Solo in occasione di anticoncordato lui rimprovera a Francesco Giuseppe di non essere, di non aver mantenuto la parola di fronte ai suoi popoli. E quando poi nel 1861 Grillparzer viene nominato dall'imperatore membro a vita del Senato, del Herrenhaus, la prima reazione è di non volerlo accettare. La seconda è che dice, ich werde halt nicht hingehen, non ci andrò nel Parlamento, e poi infatti è andato, ma è andato anzitutto quando c'erano le leggi laiche, le Magesetze, e dovevano passare anche il Herrenhaus, e secondo una tradizione si è fatto portare in una sedia perché era già così vecchio e decrepito, e secondo un'altra è andato aiutato. Si vede qui contro il chiericalismo, per la Chiesa, contro la Chiesa, per le leggi sul matrimonio e sulla scuola, lui è andato anche nel Senato. Questo dunque per classificare la radice del giuseppinismo che sopravvive e sopravvive fino alla fine dell'impero nel Hofratsliberalismus, nel liberalismo dei consiglieri aulici. Seconda corrente, quello l'ho già nominata, il ständische Liberalismus, il liberalismo del aristocratico, della vecchia opposizione contro il assolutismo. Importantissimo in Austria, ho già nominato il primo volume, il primo libro di lirica politica, appunto quelle Spaziergänge eines Wiener Poeten, apparse tipicamente nel 1831, anche nell'anno dopo la rivoluzione di luglio. Questo Anastasius Grün, che poi viene eletto anche deputato a Francoforte, che quel conte Auersperg, che poi ha una parte molto importante anche nella lotta contro il concordato, che ha chiamato per esempio il concordato una canossa stampata nella quale con la quale lo Stato dell'Ottocento deve andare fare contrizione per i peccati dell'illuminismo del settecentesco, qui del giuseppinismo, qui viene anche la parola giuseppinismo, è una delle prime volte quel Grillparzer che parla della blutige Ohrfeige für uns alte Josefina, e d'altra parte il suo rivale in un certo senso Anastasius Grün, che parla für die Sünden des Josephinismus in Sack und Asche gehen muss. Questo è dunque il liberalismo di origine aristocratico anti-assolutistico. Qui anche potrei citare un verso molto significativo del già nominato Bauernfeld, che Bauernfeld, quando dopo la rivoluzione del 48 è nata una discussione politica e anche storiografica sulle origini, sulla genesi della rivoluzione del 48, e allora il Bauernfeld ha fatto una piccola poesia che dice Raubrittersöhn, man nennt sie ständ, die haben zuerst sich aufgelehnt. Hofräte setzten sich zur Wehr und Aktenstaub flog hin und her. Kam drauf die kecke Jugend frisch und warf die Akten unterm Tisch. Che la Genesi della Rivoluzione del 48, che vuol dire Raubritter Söhn, cioè figli di ladroni signorotti, chiamati Stände, questa è naturalmente l'idea tipica dell'Ottocento sulle Stände, che sono Raubritter sull'aristocrazia feudale, che sono un po' come dice Carducci, dai reni d'un ladron dell'Alemania, sangue cavalleresco, un giorno uscì, eccetera. Insomma, questi sono Raubritter Söhn, chiamati Stände, si sono rivelati come primi, i consiglieri aulici si sono ribellati e c'era la polvere degli scartafaggi che passava da una parte e dall'altra. Venne poi la gioventù impertinente e buttò tutto questo sotto il tavolo. Questo è una cosa un po' semplicistica, ma certamente non completamente sbagliata della origine della rivoluzione viennese del 48. E basta ricordare che in quel brevissimo periodo liberale i governi liberali sono guidati da due fratelli anche della grande famiglia Auersperg, dal principe Carlos e dal principe Adolf Auersperg, che l'aristocrazia austriaca di lingua tedesca ha trovato nel suo liberalismo anche alleati nell'aristocrazia ungherese e polacca, e si pensi all'ultimo tentativo di fare una internazionale liberale sul territorio austriaco, che è intrapresa dal conte polacco Badeni, di origine una famiglia di lontane origini italiane, e anche al fatto che per esempio c'è quel raggruppamento nel Parlamento che si chiama Verfassungstreuer Großgrundbesitz, cioè proprietari di terra leali alla Costituzione o costituzionale, di quel gruppo del Verfassungstreuer Großgrundbesitz, per caso, sia detto per inciso, che faceva parte anche l'abate liberale del convento di Melk, Karl, che era un abate liberale, che era anche nel Herrenhaus. Dunque questo è il secondo gruppo. Dopo la burocrazia giuseppina, dopo il liberalismo giuseppino, il liberalismo aristocratico, libertario, anti-assolutistico. Terzo gruppo, soltanto la cosiddetta borghesia. Borghesia, naturalmente, anche come ho detto già nelle discussioni di ieri e dell'altro ieri, in Austria si può dire che la borghesia, cioè il terzo Stato, avviene al potere in forma di burocrazia. Anche la burocrazia è essenzialmente, anche se poi nobilitata, è essenzialmente borghese, perché si basa sul principio della Leistung e non della nascita, eccetera. La borghesia in senso vero e proprio, la borghesia con il binomio proprietà e cultura, Besitz und Bildung. Allora qui è da pensare anzitutto che la borghesia industriale in Austria è stata specialmente debole per varie ragioni che vanno molto lontane, che una gran parte della borghesia medievale delle città è stato poi protestante, molti hanno dovuto emigrare, eccetera, e che una gran parte anche appunto nel periodo delle riforme di Maria Teresa e di Giuseppe si è rivolto nella burocrazia, perché questo Stato, questo nascente Stato grande, questo dai territori, i domini della Casa d'Austria, questo Stato ormai organizzato con la burocrazia aveva un bisogno enorme di personale intellettuale, eccetera, così che una gran parte della borghesia socialmente si rivolta e entra nel servizio dello Stato e che questo servizio dello Stato aveva un altissimo prestigio sociale. Così che dopo le guerre napoleoniche vengono i fabbricanti in gran parte, già prima anche sotto il marito di Maria Teresa, eccetera, vengono in gran parte dall'ovest dell'Europa, dall'ovest della Germania, dall'Inghilterra, dal Belgio, dalla Francia, dalla Svizzera, dai Paesi Bassi, molti, l'ho già detto, e specialmente dalla Renania, che vengono in Austria con monopoli, con certe concessioni tirati dentro dalla dinastia che vuole, fino a un certo punto, specialmente i fratelli dell'imperatore Francesco, che vogliono modernizzare, industrializzare. I famosi grandi nomi dei fratelli Schöller che al congresso di Aquisgrana nel 1818 domandano all'imperatore Francesco il permesso, il diploma, il permesso di fare una fabbrica in Moravia, nei paesi austriaci, anzitutto per poter continuare i loro esporti senza dogana a Milano e nella Lombardia, perché nel periodo napoleonico da Düren vicino a Aquisgrana le loro stoffe venivano senza dogana in Lombardia, invece adesso avevano tutte queste frontiere, perciò hanno avuto il privilegio di costruire una fabbrica di stoffe a Brno. Oggi, e poi sono diventati, si sono rivolti la famiglia Schöller fino al giorno d'oggi, si è rivolto in tutte le diverse brani del commercio, industria, banca, eccetera, ed è diventato la grande famiglia della industrializzazione austriaca. Altri come i Juan Bosco, come i Tonnet, i Lohner, Bleckmann, come il Möhring. La famiglia Möhring è tipico, il padre di Möhring era un industriale venuto dalla Prussia, che è venuto a Vienna, ha fatto una fabbrica, sposato una delle sue operaie austriache, ma il figlio maggiore già diventa ufficiale. È una cosa curiosa che questi industriali venuti in Austria, gran parte protestante, che avevano bisogno della protezione che era della corte, non sviluppano chiaramente una coscienza politica indipendente, perché sono degli stranieri, sono protestanti in gran parte. Allora cercano di adattarsi alle tradizioni della seconda, terza generazione ai standard austriaci, molti diventano impiegati o ufficiali, altri naturalmente continuano le fabbriche ereditate dai padri, ma non sviluppano un Selbstbewusstsein, una coscienza, come è il caso nell'ovest della Germania o in Francia o in Belgio. E poi anche per questa debolezza di quel ceto, c'è dal principio una grande importanza hanno gli ebrei venuti dalla Boemia e dalla Moravia, che anche loro hanno bisogno della protezione della corte, che anche loro si trovano in una situazione minoritaria, che in parte diventano radicali, rivoluzionari, in parte diventano i fedelissimi, perché gli ebrei al tempo di Francesco Giuseppe, una gran parte, specialmente naturalmente quelli nobilitati, baronizzati, eccetera, diventano i fedelissimi, i più austriaci possibili. Ora, qui abbiamo questi tre gruppi, e a questi tre gruppi corrispondono anche i centri di malcontento nel periodo prima del 48. Ci sono, da un lato, le Niederösterreichische Stände, che poco prima della loro fine, vivono un'ultima ora di importanza politica straordinaria. Qui si vede che nel momento in cui, per ragioni dinastiche, la corona è molto debole, perché dal 1835 in poi c'è il periodo della monarchia senza monarca, senza imperatore. Il monarca è il inabile, malato, povero Ferdinando il Buono, che rimane imperatore sostenuto dalla conferenza di Stato di Metternich, Kolovrat dello zio di Ferdinando, arciduca Ludovico, Erzherzog Ludwig. Anche qui poi un cattivissimo epigramma di Grillparz che dice: Die Stützen unserer Kronen, ein alter Mann, ein altes Weib, ein alter Junggesell. Die Stützen unserer Krone sind, ja, die Träger unserer Krone sind als Stützen für ein altes Kind. Soll da nicht alles beim Alten bleiben, wenn Altersschwächen ihr Handwerk treiben? Ja, cioè, un vecchio uomo che sarebbe Kolovrat. Una vecchia Baba, una vecchia Donna che sarebbe Metternich. Un alter Junggesell, un vecchio Scapolo, che sarebbe il Arciduca Luigi, sind die Stützen, sono il supporto della nostra corona, sono i portatori della nostra corona, come sostegno per un bambino vecchio, che sarebbe l'imperatore. E allora è logico che tutto, qui è un gioco di parole, beim alten bleiben vuol dire in tedesco rimane come prima, che tutto rimane come prima, wenn Altersschwächen, se senilità e debolezza hanno la parte principale. Qui si vede anche che questa rivoluzione del 48 è poi una rivoluzione di una generazione, della generazione cresciuta dopo le guerre napoleoniche, contro la generazione che ha ancora vissuto le guerre napoleoniche, che la rivoluzione del 48 ha, in Austria almeno, è la conseguenza della grave cesura dell'esperienza del periodo napoleonico. Ora, il Bauernfeld, di cui ho parlato prima, aveva io ho parlato delle Niederösterreichische Stände, che hanno allora una importanza molto grande nella preparazione della rivoluzione, come dice appunto Bauernfeld: Raubritter Söhne, man nennt sie Stände, die haben zuerst sich aufgelehnt. Un altro centro è il giuridisch-politische Leseverein, è un'associazione giuridico-politico, di una sala di lettura, un po' come il gabinetto Vieux a Firenze, però dove sono membri anzitutto giuristi e membri della burocrazia giuseppina. Questo è proprio il centro del giuseppinismo, della tradizione giuseppina. E il terzo è poi il Niederösterreichische Gewerbeverein, l'associazione industriale della Bassa Austria, cioè di Vienna e dintorni, dove infatti in quel periodo c'era una industrializzazione, e poi l'università e naturalmente poi la forza del proletariato nei sobborghi di Vienna. Bauernfeld, e questo era il compito di Bauernfeld, anche secondo il pensiero di Grillparz, era un po' di, dato che era un busybody, a Vienna si dice un Schnittlauch auf allem Suppen, come l'erba betonica, sa, un po' il prezzemolo su tutte le minestre. Lui era un po' il trédignon di tutti. E il Grillparz scrive molto giustamente: sembra strano di attribuire qui una tale importanza a un personaggio che non aveva la statura, ma dice la sua funzione era come quella del vento e degli uccelli che portano il seme da un'isola all'altra. Un sehr schönes Bild, seine Rolle war die der Vögel und des Winds, die den Samen von einer Insel zur anderen tragen. Preparato questa rivoluzione, ma poi nel momento in cui scoppia lui si ritira. C'è una bellissima, un bellissimo posto, una bellissima osservazione nel suo diario, proprio del giorno decisivo, il 13 marzo, che per caso era anche il, si è molto parlato di questo, era anche il la data di nascita di Giuseppe II, il 13 marzo del 48, quando gli studenti, incitati da una predica di un prete liberale, Anton Fuster, all'università, vengono alla seduta delle stände attraverso Vienna per poi chiedere questo. Bauernfeld, che abitava nel Parlamento, nel Landhaus, nella Herrengasse, insieme col suo amico Doppelhof, guarda fuori con Auersperg dalla finestra. Gli studenti che in quel cortile sono vogliono che prendano la parola. Bauernfeld scrive: Als uns die Studenten am Fenster erblickten, forderten sie uns zum Reden auf. Auersperg zog flugs den Kopf und mich zurück. Quando gli studenti ci hanno visti, ci hanno chiesti che parlassimo. E Auersperg, cioè Anastasius Grün, subito ritirava la testa e me. Cioè, in quel momento, quelli leaders rinunciano proprio in quel momento, e chi parla per primo, il famoso, la famosa prima parola libera in Austria, è un completamente sconosciuto giovane medico dell'Università di Vienna, un ebreo medico, Adolf Fischhoff, che è poi diventato un politico anche molto importante, e poi il discorso di Kossuth che viene portato, tradotto e letto lì. Si vede poi ancora più forte, e posso qui ancora citare il diario di Bauernfeld, che è molto significativo, che dopo poche settimane lui fa una passeggiata con Grillparzer e dice: Spaziergang mit Grillparzer, der der neuen Sache abgewandt ist. Beinahe hätten wir uns erhofft, dass dass Russland und die deutschen Fürsten dem Spuk ein Ende machen. Beinahe hätten wir uns zerzankt, wenn die Besten so denken. Die liberale Presse schlägt allerdings über die Schnur, etc. Cioè, dice, ho fatto una passeggiata con Grillparzer, che è completamente avverso alla nuova situazione, spera che i principi tedeschi insieme con la Russia finiscano questa storia, e quasi ci siamo litigati, se i migliori pensano così, ma naturalmente la stampa liberale esagera, eccetera, poi cerca anche di difenderla, perché è logico che il vino nuovo faccia un po' di schiuma, eccetera. Ad ogni modo, qui si comincia già il ritiro delle forze diciamo tradizionali di opposizioni, che fino adesso nel loro insieme hanno creato la opposizione contro il sistema di Metternich. Appena il Metternich è caduto, sono venute le concessioni, la libertà di stampa, la formazione di una guardia nazionale e la promessa di una costituzione, comincia già il ritiro di questi gruppi dalla causa della rivoluzione. Grillparzer aveva in un primo momento salutato anche la nuova situazione, però con molti ammonimenti e molti distinguo, eccetera, e poche settimane dopo scrive la famosa i famosi versi: Regierungen die nicht regieren, Studenten, die nicht studieren, Garten, die nicht bewachen, das sind für schöne Sachen. Governi che non governano, studenti che non studiano, guardie che non guardano, bewachen, che non guardano, le cose queste sono cose belle. E poi, poco dopo, la famosa Poesia, famoso inno a Radetzky, in deinem Lager ist Österreich, tu nel campo dell'armata, lì dell'esercito, lì è soltanto l'Austria, chi Dio creò magiari e boemi, non litigano più su parole perché ti seguono anche se la tua parola da Feldherrnruf è tedesco, perché vorwärts è magiaro e anche magiaro è böhmisch, nel vorwärts ist ungarisch und böhmisch, ist tschechisch und magiarisch, no? Dunque, e anche in quella poesia subito una sferzata verso i studenti, perché dice per esempio: da ist kein Jüngling, der sich vermisst, es besser als du zu kennen. Qui non c'è nessun ragazzino che crede di saperla meglio di te, vecchio ottantenne comandante. C'è già una parte, specialmente queste. Il liberalismo da consigliere aulico che si ritira, e il Grimpans spiega anche nelle sue memorie, dice: io mi sono ero completamente deluso della rivoluzione già il terzo giorno, quando i vienesi hanno salutato con grande entusiasmo la delegazione dei magiari che venivano a Vienna purché era chiaro che i magiari volevano separarsi dallo Stato. Perché Grimpazza specialmente, ma anche poi una gran parte della quella borghesia industriale e di tutti, specialmente gli impiegati dello Stato, la burocrazia, sono poi contro la rivoluzione, non soltanto perché hanno la paura della rivoluzione rossa, della rivoluzione sociale, anche questo, ma ancora di più perché hanno la paura che questa, e vedono con i fatti, che questa rivoluzione porta alla lotta fra le nazionalità, tedeschi contro cechi, italiani contro tedeschi, magiari contro croati, eccetera, eccetera. Allora la paura che questo grande Stato, che anche economicamente era una certa unità che aveva apriva anche possibilità alla borghesia industriale e commerciale, che questo si rompesse. E così per quelle ragioni si vede già un certo distacco. Poi c'è naturalmente tutto il problema del tedesco. Ricordo il fatto che, per esempio, le prime elezioni nei paesi tedeschi dell'Austria, cioè nei paesi del Deutsche Bund, sono le elezioni dell'Assemblea di Francoforte, poi vengono le elezioni per il Reichstag di Vienna, che si raduna a Vienna nella scuola di equitazione spagnola, in la Spanischen Reichsschule, viene aperta anche quella dall'arciduca Giovanni, perché la dinastia in quel momento mette davanti come simbolo del suo liberalismo arciduca Giovanni. Viene eletto luogotenente a Francoforte, ma nello stesso tempo deve anche aprire il primo parlamento austriaco a Vienna. Ci sarebbe da parlare molto anche sul problema interessantissimo caso di quella compagnia degli studenti tirolesi che hanno fatto la rivoluzione a Vienna e che poi vengono qui nel Trentino per combattere contro i volontari italiani sotto la guida degli austriaci tirolesi, sotto la guida di Adolf Hitler, del poeta Adolf Hitler. Ancora il vecchio padre Haspinger veniva anche qui nelle valli giudicarie. È una cosa molto interessante come subito al principio il problema delle nazionalità viene ad inficiare, a indebolire subito la grande solidarietà dei primi giorni, perché non dura più che qualche giorno questo entusiasmo di un nuovo fratellanza dei popoli, di una internazionale liberale, eccetera. Questo si rompe subito per varie ragioni, ma bisogna. Il problema costituzionale lo voglio lasciare completamente da parte, forse nella discussione abbiamo possibilità di parlarci. Va sottolineato che questo primo Parlamento compie un passo molto importante, che è l'abolizione della Grundherrschaft, la liberazione dei contadini, Bauernbefreiung, il famoso Antrag del più giovane dei deputati, il 27enne studente e figlio di contadini della Slesia, Hans Kudlich, che poi è emigrato in America, poi è tornato, il famoso Bauernbefreier, la liberazione dei contadini, che porta anche al fatto che i contadini subito si sono disinteressati della rivoluzione perché avevano ricevuto quello che avevano voluto. Quel Reichstag. Poi ci sono le lotte sociali, specialmente a Vienna, c'è la famosa Praterschlacht, la battaglia nel Prater fra i poveri lavoratori della regolazione del Danubio, a cui è stato diminuito per 5 kreuzer, cioè 5 centesimi, la paga per le donne, non quella per gli uomini. È in quel caso che è intervenuto Karl Marx, che in quel momento si trovava a Vienna, la lotta poi fra le Stadtgarden, fra le guardie nazionali del centro di Vienna, che era conservatrice, perché il centro di Vienna era conservatore, perché lì vivevano quasi tutti in qualche maniera dalla corte, dalle grandi case dell'aristocrazia, dagli alti uffici, dagli uffici centrali, mentre nei sobborghi c'era il proletariato, la piccola borghesia radicale, e le Vorstadtgarten erano contro i Stadtgarten. Questo viene poi fuori nella terribile rivoluzione dell'ottobre del 48, la uccisione del ministro di guerra Latour, e poi la fine della rivoluzione. Grillparzo, di cui ho parlato già in primavera, una volta ha dovuto fuggire da Vienna, è fuggito anche nell'autunno, e come l'imperatore in primavera è fuggito nel Tirolo, a Innsbruck, nell'autunno poi a Moravia, a Olmütz, mentre il Parlamento è stato portato a Kremsier. Non voglio entrare più in questi dettagli, che sarebbero, forse vengono fuori ancora alcuni problemi connessi con la rivoluzione del 48, che era tanto importante. Poi, come risultato, si può dire che sia la burocrazia giuseppina liberaleggiante, questo liberalismo dei consiglieri aulici, che il liberalismo aristocratico, che quasi sparisce perché gli stände finiscono, vengono sciolti, vengono poi trasformati nelle Landtage, lì l'aristocrazia, quelle tradizioni sopravvivono in un certo senso, ma non hanno più una grande importanza. E anche il liberalismo borghese industriale, tutti e tre dopo la rivoluzione del 48 sono pronti ad abbracciare un governo conservatore, a allearsi con un governo conservatore ma modernizzato, cioè col governo di Schwarzenberg, col regime del neoassolutismo. L'esempio più lampante è Grillparz, che solo dopo questa l'esperienza di questa rivoluzione, dopo essere stato molto contrario a Metternich, le famose cose contro Metternich, bellissime poesie, l'epitafio a Metternich, eccetera, e dopo da Schwarzenberg, lui scrive nel periodo di Schwarzenberg, dice i Gräuel der letzten drei Jahre und die Albernheiten der letzten 20 und 30 Jahre haben in jedem redlichen Mann die Überzeugung gefestigt, dass man sich an die Regierung anschließen muss, aber nicht nur so, wie es auch in gewöhnlichen Zeiten die Pflicht jedes Ehrenmannes ist, sondern auf eine ganz besondere, entschiedene Art. Dice le cose orrende, gli avvenimenti orrendi degli ultimi tre anni e le sciocchezze degli ultimi 20 e 30 anni hanno confermato in ogni uomo d'onore la convinzione che bisogna sostenere il governo, ma non soltanto come dovere di ogni cittadino ben pensante anche in tempi normali, ma in una maniera molto più decisa e più forte. È il periodo in cui lui è veramente lui e gran parte della borghesia, specialmente la borghesia industriale, è d'accordo con quel conservativismo modernizzato di Schwarzenberg. Ma è una luna di miele che dura soltanto alcuni anni. La decisiva rottura di nuovo fra le forze conservatrici e le forze liberali avviene a proposito del concordato del 1855. Qui sarebbero da citare molte cose di un fanatico odio veramente per esempio di Grillparzer contro il concordato, contro a Francesco Giuseppe che ha concluso quel concordato. Basta solo quel verso, per esempio: der heilige Vater aller Frommen hat durch sein gnädiges Konkordat unser Landesvater angenommen an Kindesstadt. Santo Padre di tutti i Pii, per il suo grazioso concordato, ha adottato come figlio il nostro sovrano. E robe del genere, anche contro Massimiliano, per esempio, che era in quel periodo ancora considerato un po' liberale, eccetera, e molte altre cose. Potrei citare ad infinitum delle cose per dimostrare come quel concordato ha portato veramente alla rottura fra il liberalismo di tutte le sfumature e il governo. Poi questo governo del neoassolutismo, come voi sapete, viene battuto a Magenta. C'è un poeta tirolese, Hermann Tilm, no, che era impiegato, presidialista nell'Alta Austria del fratello di Bach, che fa una poesia dove dice: da donnern bei Magenta die Geschütze und Gott erwacht und schleudert seine Blitze und wirft der Freiheit Henkersknechte nieder. Cioè, i liberali che considerano la vittoria dei nemici o la sconfitta degli austriaci a Magenta come una vittoria della libertà. È un atteggiamento molto curioso. E ad ogni modo, dopo avvengono le concessioni costituzionali, il diploma d'ottobre del 60, la patente di febbraio del 61 di Schmerling, e l'Austria è definitivamente diventato uno Stato costituzionale, benché ci sono ancora velleità conservatrici che si dimostrano, per esempio, nella Verfassung si stirano nel 65. Ma definitivamente il liberalismo ha vinto dopo la disfatta della corona e dello Stato del 66, e comincia la l'era liberale nel senso più stretto e più deciso, che coincide anche con un grande boom economico, che l'Austria, liberata dal peso della questione tedesca e della questione italiana, non ha può concentrarsi adesso sui suoi problemi. Ci sono delle raccolte straordinarie e comincia appunto questi famosi 7 anni grassi, secondo il Bibliotheca dal 60, come l'ha detto Heinrich Benedict, dal 67 fino al Börsenkrach del 73. E questo periodo è l'era veramente liberale, ma una cosa che è molto importante avviene prima di tutto attraverso due sconfitte dello Stato. E d'altra parte, in un momento in cui la borghesia di lingua e di cultura tedesca austriaca si sente privata del sostegno della Germania, esclusa dalla Germania, e poi deve anche cedere la parte orientale, cioè la nel compromesso ungherese, l'autonomia statale all'Ungheria. Cioè che quella borghesia liberale, questi ex rivoluzionari del 48, che intanto sono diventati dei notabili, ben pensanti, uomini di una certa età, che non sono più i giovanotti rivoluzionari di una volta, che adesso diventano ministri imperiali in frac e decorazioni, e che vogliono adesso godersi la loro vittoria, e allo stesso tempo si trovano in una posizione difficile dal punto di vista nazionale e dal punto di vista politico dello Stato. Però lì comincia questa era del Bürgerministerium, cioè il ministero della borghesia capeggiata dal principe Carlos Auersperg. Ci sono le famose leggi del dicembre 67 che allargano la Costituzione schmerlingiana di quel Schmerling che era stato primo ministro di Francoforte, del governo di Francoforte, che era già stato prima anche uno dell'opposizione delle Niederösterreichische Stände e che adesso è stato uno dei padri della Costituzione del 61 e che adesso è diventato anche presidente della Corte Costituzionale. Queste leggi di dicembre sono molto importanti, come ho detto l'Austria diventa dal 67, è un fatto che la propaganda italiana del risorgimento ha molto abilmente offuscato alla coscienza nazionale italiana, che l'Austria dall'autunno del 67, cioè un anno dopo la cessione del Veneto, diventa uno Stato modernizzato, uno Stato liberale, e laico, naturalmente anche questo. Questo è una cosa che la coscienza storica italiana non ha mai recepito. L'altro anno l'ha detto anche qui Ernesto Sestan, che conosceva molto bene i problemi, che diventa appunto uno Stato liberale, laico, costituzionale, e i liberali si scagliano adesso contro il concordato. Il concordato è un po' il capro espiatorio. Si dice l'Austria è stato battuto da Cavour e da Bismarck perché Cavour e Bismarck si sono serviti del concordato contro l'Austria. Adesso bisogna abolirlo, bisogna fare delle leggi contrarie, sono le famose leggi del maggio 68, appunto sulla scuola, sulla famiglia, sul matrimonio, sulle relazioni fra le confessioni. L'Austria, in queste leggi del dicembre 67 e del maggio del 68 viene stabilita l'assoluta parità di tutte le confessioni, di tutte le nazioni, lo Stato garantisce il libero sviluppo culturale a ogni delle 12 e più nazioni che sono sul suo territorio, eccetera, eccetera. Queste leggi che praticamente erano tutte in contrario col concordato del 55, vengono sanciti, poi passano con l'aiuto del vecchio Grimpalz portato con la portatina nel Senato, nel Herrenhaus, e sanzionati dall'imperatore, e c'è una forte opposizione di una parte dei vescovi e del clero, cioè il vescovo, anzitutto uno che è il vescovo di Linz, il famoso Rudiger, che in una sua lettera pastorale esorta il suo clero alla disobbedienza alle leggi di Stato. Viene citato davanti al tribunale, non va, non voglio andare perché dice io come vescovo non sono sottoposto a un tribunale secolare, viene guidato dalla polizia, arrestato, portato davanti al tribunale che gli infligge una pena di arresto di 14 giorni, subito graziato dall'imperatore. Così tutto è, ma in questa occasione, ed è interessante, questo corrisponde a quello che lei ha detto oggi, questo arresto del vescovo di Linz, in quell'occasione c'è una dimostrazione del popolo cattolico, della popolazione cattolica a Linz, e spesso dopo si è detto che questo era il principio del movimento cattolico politico in Austria, come era stato in Kölner Ereignis nel 1937 a Colonia. Dunque qui questa lotta e quel concentrarsi del liberalismo sulla questione del concordato, come voi sapete tutti, poi il concordato è stato abolito nell'estate, finalmente disdetto completamente nell'estate del 70, dopo con la scusa molto debole giuridicamente che la dichiarazione dell'infallibilità del Papa ha cambiato il carattere di una delle parti contraenti. Scusa, ho detto qualche... No, ho detto che noi siamo ancora lì, che non siamo ancora in Italia, non siamo ancora abolito il concordato. Sì, sì, lì è stato abolito appunto, per anche l'imperatore era convinto lì, c'è un influsso, ho scritto su questi problemi una volta anche in occasione al nostro congresso del 70, che c'era naturalmente l'impressione terribile che ha fatto sui vescovi austriaci che erano stati anti-infallibilisti, la dichiarazione dell'infallibilità, la depressione anche del cardinale Rauscher, che era stato uno dei maggiori artefici del concordato del 55. Lasciamo da parte tutti gli altri problemi che ci sono poi nel 71, che il liberalismo riceve una prima botte di ammonitrice con la costituzione del governo federalista liberale del conte Hohenwart e di Scheffle, però poi ritornano di nuovo con un governo Auersperg, un governo liberale, poi la grande botte veramente è il crollo della borsa, il grande crash del 73, dove poi una parte della generazione giovane attacca l'establishment liberale, dice che è stato troppo legato con la speculazione, c'è il rimprovero di corruzione di questi uomini, di quei ex rivoluzionari del 48 che vengono adesso criticati, e il dubbio contro le leggi del liberalismo economico e la necessità che lo Stato intervenga a protezione dei deboli, che sono i contadini, che sono i piccoli commercianti, che sono i proletari, e che anche in un certo senso una parte dell'aristocrazia. Una parte si è industrializzata, liberalizzata, eccetera, un'altra parte rimane emarginata e diventa il portabandiera di idee sociali, i cosiddetti social gli aristocratici sociali, che poi hanno una grande importanza nel periodo seguente. Critica contro il liberalismo, difetti che diventano appariscenti adesso nella compagine del partito partito costituzionale, perché il liberalismo non si è costituito da partito, si chiama il partito costituzionale, cioè i deputati qui a Vienna, che sono tutti notabili onorazioni nel senso di Max Weber. Ma la caduta del governo liberale avviene attraverso i liberali stessi, e questo è molto tipico, ed è per ragioni della politica estera e della politica nazionale. Adesso 100 anni fa, il congresso di Berlino affida all'Austria l'occupazione della Bosnia e dell'Erzegovina. Il governo deve liberare, naturalmente annuisce a questo passo, è contento, anche non si può negare a Francesco Giuseppe, dopo tutte tante delusioni e sconfitte, che abbia anche l'idea di aver portato un po' nuove conquiste, anche se è un paese molto povero, questa Bosnia e Erzegovina è un po' un surrogato per le colonie, per gli, eccetera. Allora il governo è d'accordo, ma i capi del partito, che adesso in questo secondo periodo dell'era liberale, i capi che sono rimasti in Parlamento, sono contrari, criticano l'occupazione della Bosnia e Erzegovina con argomenti tutt'altro che stupidi, cioè dicono un argomento che è comprensibile, dicono non vogliamo acquistare altri milioni di slavi, abbiamo già tanti slavi nel nostro impero. Qui c'è la paura che i tedeschi, che fino allora, fino al 66, credevano di aver dietro a sé tutto sommato i 70 milioni di tedeschi, adesso vedono, si accorgono che dentro alla monarchia plurinazionale sono sì il gruppo più numeroso, ma sono una minoranza, specialmente se si prendono insieme tutti gli slavi, sono in minoranza, e c'è la paura di perdere la guerra delle nascite. Allora dicono no, non vogliamo altri slavi. Poi se entriamo nei Balcani diventiamo nemici nemici acerrimi, logico, antagonisti della Russia. La Russia, ci inimichiamo per sempre la Russia, e questo è pericoloso, e inoltre non bisogna entrare nelle beghe dei Balcani, che sono tanto complicati. Qui c'è l'esempio di Bismarck, il famoso die Balkanfragen sind nicht die Knochen eines einzigen pommerschen Musketiers, le questioni balcaniche non valgono le ossa di un singolo muschettiere della Pomerania. E adesso, in quel periodo, anni 70, i liberali austriaci, che erano stati così anti-bismarckiani nel periodo del Verfassungskonflikt negli anni 60, adesso sono diventati grandi ammiratori, c'è enorme prestigio di Bismarck anche per questo. Dunque i tedeschi sono contrari, e il governo di Auersperg, l'ultimo governo liberale, che è solo liberale, dà le sue dimissioni, comincia la lunga era del Conte Taffe, una era conservatrice con legislazione sociale, con una certa collaborazione fra i social-aristocrati e i movimenti di massa che cominciano a nascere, socialisti, cristiano-sociali, eccetera. Ancora una volta, un'ultima volta, due volte, i liberali hanno ancora possibilità di ritornare al potere. Uno è quando 14 anni dopo il più lungo ministero, il ministero Taffe, dal 79 fino al 93, il governo Taffe cade sulla questione del suffragio universale. Il governo Taffe vuole il suffragio universale, i liberali tedeschi sono contrari, e anche una parte dei conservatori sostenitori di Taffe, anzitutto i polacchi, sono contrari, e così il governo Taffe cade per la questione del suffragio universale. E questa, come si è detto, è la unheilige Allianz, non santa allianz, fra liberali e conservatori fa un governo di coalizione dei beati possidentes, e i liberali tedeschi anche non vogliono il suffragio universale anche per paura degli slavi, perché non vogliono l'abolizione del censo. Già il governo Taffe aveva diminuito il censo annuo da 10 a 5 gulden di tassa per l'anno, cioè sono entrati i piccoli borghesi, i contadini nel diritto di voto, e i liberali sono contrari, vogliono mantenere il Besitzstand, la parola giusta è il Besitzstand, quello che hanno sia nel campo nazionale sia nel campo sociale. E adesso quel governo di coalizione cade anche dopo breve tempo, e cade per una cosa molto significativa, ridicola ma significativa: il governo della parte occidentale di un grande impero cade sulla questione delle classi parallele per gli sloveni della piccola città di Zilli. È tipico qui che i liberali sono diventati un partito che vuole ad ogni costo mantenere il suo possesso, il suo Besitzstand, sia in campo nazionale che in campo sociale. E questo governo, di nuovo, vi ricordate, nel 78 i liberali fanno cadere il proprio ministero, nel 94 di nuovo i liberali fanno cadere il governo di coalizione, e una seconda volta quando il conte Badeni cerca di sostituire la vecchia formula di Taffe, di una alleanza, di un Eisernen Ring, di un anello di ferro di tutti i partiti conservatori di tutte le nazionalità, adesso l'idea di un'alleanza di tutti i partiti liberali di tutte le nazionalità naufraga miseramente, perché anzitutto i tedeschi si oppongono alle sue Sprachverordnungen, e il governo di Badeni cade nella famosa crisi di Badeni, con tutte queste scene terribili nel Parlamento di pugni e schiaffi, di musiche, di ostruzionismo, di discorsi di 14 ore, eccetera, eccetera. Dunque, anche qui i liberali sono diventati adesso un partito, diciamo il partito dei beati possidenti, da un partito di riforme a un partito che si oppone alle riforme. E lì viene poi la decadenza completa, il liberalismo quasi sembra di scomparire, perché i partiti liberali che si sono formati, come la Deutsche Fortschrittspartei, la Deutsche Volkspartei, diventano sempre più nazionalisti. Questo naturalmente avviene in tutta l'Europa, che nel binomio nazional-liberalismo il nazionalismo ha il sopravvento sul liberalismo, ma nella monarchia plurinazionale questo è naturalmente, in quel periodo la questione nazionale si sovrappone a tutte le altre questioni, ha il primato assoluto, e così il liberalismo quasi scompare. Rimane nella stampa liberale, nell'industria liberale, in un certo liberalismo culturale che ancora attinge tutte la produzione liberale, ma politicamente è veramente morto e non esiste più. Non c'è un partito, se posso ancora dire qualche parola sul partito liberale, come ho detto, non era mai un partito organizzato, era sempre una combriccola di amici, delle stesse opinioni, come si diceva una volta, lo dicono ancora adesso i tori inglesi, we are not a party, we are just a bunch of friends who happen to have the same prejudices. E un po' così e coi liberali austriaci cambiano il nome. Al principio viene chiamato il partito del Costituzione, la Verfassungspartei, poi una volta si chiamano Vereinigte Linke, la sinistra unita, al contrario dei conservatori, un gruppo, come ho detto, il Verfassungstreue Großgrundbesitz, poi il Fortschrittsgruppe, la Fortschrittspartei, la Deutsche Volkspartei, poi vengono uniti come un'associazione, una lega di tutti i partiti tedeschi che non sono né cristiano-sociali né socialisti, si chiamano Deutscher Nationalverband, un'associazione molto locca, molto poco solida, molto diversa. C'è anche lì un bellissimo verso che si diceva, si cita sempre il famoso «Der eine saß, der andere stand, der stimmte für, der wider». Das ist der Nationalverband, stimmt anders Lieder, Lieder. Das stimmt anders Lieder, Lieder è una canzone patriottica, che vuol dire uno stava in piedi, uno stava seduto, uno votava pro, uno votava contro. Questo era la Lega Nazionale, cantate il canto nazionale, no? Così il liberalismo scompare quasi completamente. Alla fine della monarchia non c'è un partito veramente liberale, e nella prima repubblica, se posso dire queste due parole ancora, l'elemento liberale in tutti i tre campi, in tutti i tre gruppi politici, cioè il cristiano sociale, il socialdemocratico e il nazionale pangermanico Großdeutsch National Liberale, l'elemento liberale in tutti i tre gruppi, cioè elemento di discussione, di parlamentarismo, di compromesso, il principio del discutere, eccetera, della tolleranza reciproca, tutto questo scompare finché si arriva negli anni 30 alla distruzione del parlamentarismo, alla dittatura, alla fine dello Stato. Però nella Seconda Repubblica poi c'è un certo risveglio dell'elemento liberale, e adesso ci troviamo davanti alla situazione che dei tre partiti che sono rappresentati nella Repubblica Austriaca, tutti e tre dicono: noi rappresentiamo anche l'eredità liberale. È una cosa curiosa che sia i socialisti di Kreisky dicono: noi abbiamo gli elettori liberali, noi abbiamo collaboratori liberali, questo liberalismo che è diventato quasi come un fantasma. E dall'altra parte anche il Partito Popolare dice: noi rappresentiamo i principi e l'eredità del liberalismo. Poi c'è quel piccolo partito che si chiama Freiheitliche Partei, la FPÖ, che ha una certa tradizione anche nazionalista, ma anche loro dicono: ma i veri liberali siamo noi. E sotto questo aspetto si può forse dire che il padre di Hermann Bahr, che al principio diceva, che come ho citato, che il liberalismo non può morire ma si può rigenerare continuamente, non abbia avuto completamente del torto. Grazie della scusate. Credo che mi sia tu signore, 1, 2, 3 primo, secondo e terzo, no, là, poi lei e poi non ci inizia di Dumoulin per lei intorno all'atteggiamento assunto dalla questione coloniale italiana, ossia mi pare che sia stato detto che per quanto riguarda l'aspetto economico, la Grecia era abbastanza vicina agli ambienti di famiglie tranquilli, soldati e in futuro notoriamente dei sostenitori delle stazioni coloniali italiane, ma in particolare sono noti soprattutto gli esperimenti di colonizzazione agricola di Franchetti, lo stesso Sonnino, almeno fino al dicembre del 95, che sarà un sostenitore dell'espansionismo coloniale. Quindi, come mai l'Ardetto economicamente era vicino a questi ambienti, era però contrario all'espansione coloniale italiana? Perché contrario all'espansione coloniale italiana, come anche quali altri paesi europei. In genere era contro, perché come era in maniera ideologica di Bastia disse, lui vedeva, non vedeva la necessità dell'economia fuori dell'Europa. Poi il modello coloniale che è il landee difende, solo il modello coloniale del landee difende, è quello dell'economia olandese di fatto, perché quello di buon veramente si fanno degli anni storici. E dice, bisogna, per avere una cosa, bisogna investire tanto, che dopo bisogna aspettare troppo tempo prima di avere i benefici. E questo atteggiamento l'ha avuto per ripeto il Congo, dal 1882 in corso. Poi ha cambiato idea, perché per il vento il re Leopoldo II l'ha fatto parlare. Un po' più forte. Allora, ha cambiato idea. E per l'Italia ci sono molti lettere all'italiano tra l'83 e l'89, quando si comincia a parlare in Italia della megalomania, nel quale ci sono una serie di espressioni dell'Arlet che parla della l'insanité del colonialismo italiano, eccetera. Non perché eravamo italiani, ma sempre per quello mancanza di fondo. E prima di tutto i fondi dovevano essere utilizzati in Italia per l'insegnamento, per l'esercito, ancora per l'Arlet, che sono stato, dicevo, degli anni fa, due anni fa. E non è una visione all'italiana di civismo, è una mito, signora Mazzor. Io prima di iniziare mi devo spiegare con un'affermazione generale di carattere di cose che sanno tutti prima che è necessario per quello che dico dopo, cioè che io vedo lo sviluppo austriaco involto nel processo europeo del scioglimento del sistema agrario feudale, della secolarizzazione, il scioglimento dell'antica Reich, dell'antico Reich e dell'antica Reichsidee, e cioè involto anche nella via dello Stato allo Stato moderno, unitario, costituzionale e industriale. Già da inizio il problema austriaco era diverso dalle altre nazioni, e quel particolare problema austriaco rendeva più difficile e più arretrato quel processo verso lo Stato moderno. Cioè, il liberarsi dalla vecchia federale idea del Reich significava, e il concentramento statale significava la violazione delle diverse parti. E era necessario per avere uno Stato economicamente prospero e moderno quel concentramento, ma da ciò derivava una volta una diversità di liberalismi, perché ognuna delle parti aveva la sua interpretazione di quel processo di modernizzazione. Dico soltanto quel liberalismo conservatore della boemia aristocrazia feudale, che per niente secondo me è conservatore e poteva benissimo avere anche due, la Lehrenfreiheit per esempio del ministro Thun e il concordato, perché per lui liberalizzazione era un rinnovamento della religione e un'apertura verso le scienze, ma nello stesso momento il sollevamento dell'idea cristiana e della responsabilità per le classi sociali, per esempio, no? Che i liberali veri e propri cosiddetti non avevano quel senso del problema sociale. Questo era l'uno. Il secondo era che mancava nel processo di unificazione austriaco quella forza unificatrice nazionale, e se ne erano consci, per esempio, i governanti già dall'inizio. È stato fondato per l'Institut für Österreichische Geschichtsforschung. Sotto il neoassolutismo. Sì. Proprio con le espresse parole di dover creare una coscienza nazionale austriaca, che poi non è mai riuscito, perché mancava per tanto tempo una storia austriaca, perché non c'era quel senso di essere un cittadino austriaco. Allora, nel liberalismo, sempre tra virgolette, perché io penso che il liberalismo austriaco non si può dire, mancava quella combinazione tra nazionalismo e liberalismo. Poi, secondo punto, secondo me quel processo di modernizzazione è stato iniziato dall'alto, e cioè nel 600, anche già sotto Maria Teresa, non soltanto Giuseppe II, perché la codificazione del diritto privato è stato già iniziato da Maria Teresa stessa. Era necessario, appunto, per avere quello Stato moderno, di avere un diritto calcolabile. Bisognava liberarsi dai diritti vitio, non so cos'è, arbitrari di diversi diritti che esistevano a quel tempo. E allora quella codificazione del Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch del 1811 era un diritto modernissimo, che poi ha sopravvissuto 150 anni. E fino adesso. Sì, e secondo me quello era proprio il codice della società liberale modernizzata per crearsi poi quel sviluppo economico e politico della borghesia. E poi non era per niente soltanto una codificazione del diritto privato, come è stato creduto da lungo tempo, ma aveva un'immensa importanza anche di carattere öffentlich-rechtlich, di diritto pubblico, perché quella codificazione significava la fine della società feudale e agraria. E poi, secondo me, quella modernizzazione dall'alto durante il periodo metternichiano è stato interrotto, cioè si aveva le strutture più moderne di quanto sia stato il governo dall'alto, che era una contraddizione che portava poi alla rivoluzione, e quei primi tentativi di far corrispondere la politica, cioè il governo e l'amministrazione, a quel processo di modernizzazione che è stato già iniziato tanto tempo prima, si aveva nella rivoluzione del 48 e poi anche nel neoassolutismo, che per me non era quel periodo oscuro come i storici liberali come Friedman e Habermas, eccetera, l'hanno sempre visto proprio dal punto di vista liberale. E quello finiva poi nello stato cosiddetto vero e proprio liberale. Giusto. Dieser kann ich nur zustimmen, ein. Aber das habe ich ja gesagt, dass die Reformen natürlich schon Maria Theresia, dass das nicht erst der Josef II. Nein, war. Das stimmt nicht. Sono completamente d'accordo. Innanzitutto una nota preliminare, perché il testo che ho distribuito ho soltanto visto dopo quanti sbagli grossissimi contiene la traduzione italiana. Allora vi prego di non accreditare a me tutto quello che c'è scritto lì, ma di leggere questo testo con molta, molta cautela. Dove, per esempio, Staatskirchentum è tradotto con clericalismo di Stato. Si vede proprio il risultato di un atteggiamento di certe case editrici che si riservano tutti i diritti. Ma Staatskirchentum. Giurisdizionalismo. Clericalismo di Stato. Ho sentito stamattina un estratto. Poi vorrei sottolineare due aspetti. Il primo, abbiamo visto stamattina e questo pomeriggio la grande importanza dei concordati di Roma, che hanno provocato la reazione liberale. E si vede proprio lì, questi concordati sono un po' il culmine di tutta una politica degli anni 50 da parte della Curia Romana, sostenuta già allora dai movimenti cattolici, non ancora politici nel senso stretto. Si vede che l'Europa di allora era fra l'altro dominata da due offensive, quella ultramontana, papale, e quella liberale. C'è davvero uno scontro frontale da due Weltanschauungen con le rispettive organizzazioni attorno a quella Weltanschauung. Il cattolicesimo che si chiudeva in modo autoritario e che di fronte a tutte le modernizzazioni, a tutte le emanazioni dalla Rivoluzione francese in poi, si chiudeva in un atteggiamento di difesa autoritaria, voleva a tutti i costi conservare e consolidare una concezione conservatrice tradizionale della società. In pari tempo, già negli anni 50, il liberalismo europeo, con tanti fenomeni paralleli, cercava di cambiare questa società con la modernizzazione dell'istruzione, delle scuole e con la secolarizzazione di Stato e società. Abbiamo proprio due grandi Weltanschauungen che dagli anni 50 e poi, forse in Germania si potrebbe dire dalla Volkskirche, poi stanno uno contro l'altro. Esistevano ancora dei tre d'unione, come all'inizio il cattolicesimo politico aveva avuto certe cose in comune con il liberalismo, però da quando il liberalismo, dal liberalismo politico diventa Weltanschauung, cioè liberalismo, e da quando la Chiesa Cattolica e prende la strada che va verso il sillabo, da allora ci sono questi fronti ben definiti che hanno determinato tutto l'ulteriore sviluppo della cultura europea degli anni 60, 70 e 80. E mentre gli uni volevano conservare un vecchio ordine legittimo, con certi antifatti anche concordato austriaco, non è il primo, anzi certe formule ripetono esattamente il concordato bavarese del 1917. Gli altri liberali predicano il progresso e siccome il progresso deve avere dei risultati positivi, così avveniva sia in Austria sia in Germania, che la cosiddetta crisi economica, la stasi economica, che diventava anche crisi di coscienza culturale, cambiasse tutto l'assetto e ha facilitato la ascesa al potere delle forze conservatrici, perché il progresso ha bisogno di una conferma continua, quando manca comincia a mancare anche il fondamento. La seconda osservazione molto più breve riguarda quell'intreccio fra questione nazionale e liberalismo. Lei ha detto bene che in Austria non si poteva creare una coscienza storica o nazionale austriaca, no, era proprio lì la questione centrale, cioè quella della nazionalità tedesca. Così come abbiamo visto che alla fine degli anni 50 la questione nazionale è intimamente collegata con il liberalismo, anche nell'Austria degli anni 50 e 60 un imperatore Francesco Giuseppe che va a Francoforte, che fa il Fürst d'Italia, che cerca ancora di combattere l'influenza prussiana e di fare dell'Austria anche la prima potenza di una nuova e più grande Germania. Lui naturalmente non può sviluppare la coscienza austriaca. Allora, soltanto dopo le divisioni del 66, dopo le vittorie e delle disfatte del 66 e del 71, vinta l'Austria, vinta la Chiesa Cattolica, abolito lo Stato Pontificio, proprio dopo queste svolte del 66 e del 71, cominciano delle costellazioni tutte nuove al seno delle singole nazionalità e anche al seno delle singole ideologie. Ich glaube, dass das Problem von Nationalismus und Liberalismus, das Sie gerade jetzt auch angeschnitten haben, im Fall von Österreich eine spezielle Bedeutung hat. Während nämlich in den anderen Staaten diese starke Verbindung von Nationalismus und Liberalismus die Liberalen teilweise glauben machen konnte, dass sie in einem größeren nationalen Rahmen ihre liberalen Forderungen möglicherweise leichter durchsetzen werden können, war das in Österreich ja nicht der Fall, da man es hier ja nicht mit einem Nationalismus, sondern mit mehreren Nationalismen zu tun hat, sodass die Verbindung von Liberalismus und Nationalismus gleichzeitig zu einer Schwächung der liberalen Position geführt hat. Und es ist ja kennzeichnend, dass in der gesamten parlamentarischen Geschichte jene Fälle, wo Liberale verschiedener Nationalitäten zusammengearbeitet haben, und das gab es schon, aber diese Fälle sehr gering waren. Es gab natürlich auch Liberale bei den anderen Völkern der Habsburger Monarchie. Es gab Liberale in Ungarn, es gab Liberale in Böhmen, bei den Tschechen, weniger bei den Polen, aber auch. Es gab auch Liberale bei den Slowenen, natürlich bei den Italienern. Hier gab es von Zeit zu Zeit Kontakte und gerade die von Ihnen ja auch angeführten Mai-Gesetze der Durchlöcherung des Konkordates sind ein Punkt, wo es zu einer gewissen Zusammenarbeit der liberalen Kräfte über die nationalen Grenzen hinweg kam. Aber die Kohäsion dieser liberalen Idee, vor allem was das Konstitutionelle betrifft, war doch nicht stark genug, um darauf eine tragfähige Basis zu bilden. Die Frage des Konstitutionalismus und das Verhältnis des österreichischen, was nun also vielleicht auch wieder gleichbedeutend mit dem deutsch-österreichischen Liberalismus ist, also die Frage des Verhältnisses des deutsch-österreichischen Liberalismus und Konstitutionalismus ist noch besonders dadurch kompliziert, dass das Ausmaß an konstitutionellen Rechten, die errungen werden konnten, im Verhältnis zu anderen Staaten doch um einiges geringer war. Man darf ja nicht vergessen, dass der gesamte Bereich der Außen- und Militärpolitik von diesen liberalen konstitutionellen Rechten nicht berührt war. Das war außerhalb der Kompetenz jeglicher liberaler oder sonstiger Parlamentsmajorität. Außen- und Militärpolitik. Ferner schon die Delegationen. Die Delegationen, naja, aber die Delegationen, das war also mit der Ministerverantwortlichkeit auch so eine eigene Sache, da es ja zwar an sich vorgesehen war, die Ministerverantwortlichkeit, auch der gemeinsame Minister war zwar im Gesetz vorgesehen, der Gerichtshof, vor den diese Minister aber hätten gestellt werden sollen für den Fall, dass eine Verletzung stattgefunden hat, der ist nie konstituiert worden. Das heißt, man konnte, selbst wenn man wollte, und man wollte ja nicht, aber wenn man wollte, hätte man diese Minister nie parlamentarisch zur Verantwortung ziehen können. Zum anderen ist ja auch das Notverordnungsrecht zu bedenken, dass jener unselige Paragraph 14, der Regierung die Möglichkeit gab, über die Wünsche des Parlaments hinweg Dinge in Gang zu setzen. Von diesem Notverordnungsparagraf ist, je länger die Geschichte gedauert hat, desto häufiger Gebrauch gemacht worden. Und allein die Tatsache, dass so etwas existiert hat, hat ja verhindert ein stärkeres Zusammenkommen zwischen Parlament und Regierung. Es gäbe dann noch weiteres in dieser Hinsicht zu bedenken, die Wahlkreiseinteilung, die von Ihnen ja genannten Wilke von Schmerling oder auch den zurückgeht, der wie schon gesagt wurde, Ministerpräsident in der Paulskirchenregierung war. Das war dann doch eine sehr eindeutig klassenorientiertes Wahlrecht mit dem starken Zensus, mit der besonderen Bevorzugung des Industriebürgertums durch die Schaffung der Handels- und Gewerbekammern, die als solche Abgeordnete ins Parlament entsenden konnten. Da gab es natürlich sehr starke klassengebundene Interessen, die man auf jeden Fall berücksichtigen sollte. Ja, da stimme ich Ihnen also vollkommen mit Ihnen überein. Ich darf vielleicht etwas noch sagen, was ich, devo parlare in italiano, vorrei dire soltanto una cosa che mi è sfuggito perché già il tempo era troppo lungo, se guardiamo perché i liberali sono falliti così presto, perché veramente credo in quasi nessun altro grande Stato europeo il vero periodo liberale era così breve, brevissimo. Sì? Nein? Anche in Germania, un decennio, dal 67 al 68. Ja, aber doch ein bisschen. Come partito di governo. Sì, come partito di governo. Sind Sie nicht da an sich? Wollen Sie mir sofort widersprechen, ja? Perché sono, ad ogni modo sono falliti relativamente presto. Io ho parlato delle difficoltà, delle origini di questa forza grande del giuseppinismo, delle grandi differenze fra questi tre gruppi, perché quel liberalismo aristocratico anche poi si manifesta molto forte in pubblicazioni come quello dell'Andrian Werburg, eccetera, prima della rivoluzione, ma sparisce quasi dalla scena e sopravvive soltanto nelle Landtag, nelle diete delle province, perché allora c'è stato rimproverato ai liberali austriaci, cioè ai liberali di lingua tedesca, ai tedeschi, Deutschliberalismus, da un lato che loro non hanno avuto nessuna compressione per la questione sociale. Questo non è vero, c'erano dei gruppi liberali che hanno contribuito, che hanno avuto molto interesse per la questione sociale, che hanno aiutato l'organizzazione dei lavoratori ancora prima dei social aristocrati o anche della Chiesa cattolica, o allo stesso tempo, quindi è inutile sollevare il problema di priorità, ma ad ogni modo c'è stata una delle tesi di un mio allievo Vado, molto buona, che purtroppo non è ancora stampata, appunto sul liberalismo e questione sociale, e qui si vede che naturalmente c'erano dei gruppi liberali che erano assolutamente dei Manchester liberale, ma però c'erano anche dei liberali riformatori che si interessavano della questione sociale, eccetera. È un po' una propaganda specialmente da parte conservatrice, clericale, di dire il liberalismo non si è occupato della questione sociale. Questo non è vero. L'altro rimprovero che i liberali tedeschi non hanno visto l'importanza della questione nazionale, delle rivendicazioni e aspirazioni delle nazionalità non germaniche. Anche questo non è vero, perché c'è stato nel liberalismo anche dei federalisti, della gente per che si Johanne Pomperga o il Fischhoff che ho già nominato, che si sono molto interessati delle rivendicazioni e dei problemi nazionali. Ma io credo che si possono mettere tutti questi due problemi su una constatazione che non è un rimprovero, sulla semplice constatazione che negli anni fine degli anni 60 e prima metà degli anni 70, che proprio nel periodo liberale i capi liberali, non dimentichiamo che i liberali sono non un partito ma un bunch of friends, un gruppo di personalità, di individualiste, di, eccetera. Questi personaggi erano appunto uomini che avevano combattuto da giovani sulle barricate di Vienna, che adesso, 20 anni dopo, erano tutti diventati ben pensanti, uomini ricchi, un establishment con la pancia, eccetera. C'è anche questo movimento. E come partito erano diventato il partito del Besitzstand. E questa parola, che per me è una parola chiave per il liberalismo di quel periodo, il Besitzstand, cioè la, quello che abbiamo, il beati possidente, der nazionale Besitzstand, der soziale Besitzstand. La paura della rivoluzione nazionale, del il ricordo del 48. Io credo, se oggi abbiamo parlato che per il Baden e per la Prussia la Commune ha avuto un enorme influsso, perché formule come quelle del Granduca, che bisogna risollevare il sentimento religioso per tenere, questo è anche l'atteggiamento di Bismarck. In Austria quella Commune era più lontana, però il ricordo della rivoluzione del 48, con la paura della rivoluzione rossa, cioè caso l'uccisione di Latour, eccetera, nell'ottobre, ma più ancora la paura dello Stato che cade in pezzi. Questa è la cosa essenziale. Allora bisogna mantenere in lo Stato, e in questo Stato mantenere quello che abbiamo, da nazionale Besitzstand, da soziale Besitzstand. Per quello il partito rifiuta l'allargamento del suffragio, anzitutto il suffragio universale, dicendo che non è giusto che un grande industriale o un professore di università abbia lo stesso voto come il famoso Hutzenschleuder nel Prato, cioè l'uomo che dà la spinta al baraccone della fiera dove le ragazze vanno su e giù, no, come si dice, l'altalena, che spinge l'altalena. Questo era un famoso slogan dei liberali, da Hutzenschleuder in Prato. Cioè, e l'altro era l'idea che non bisogna dare troppo possibilità agli slavi, perché questa paura, questa idea di che poi... in fondo una paura difensiva che però diventa poi offensiva fino a Hitler, l'idea di quella marea degli slavi che vincerà la guerra delle nascite. Io credo che dobbiamo anche introdurre in tutte le nostre discussioni, l'altro giorno l'abbiamo dimenticato forse un po', quando parliamo del periodo idealistico del liberalismo fino al 48 e della realpolitik dopo, c'è il darwinismo, c'è l'idea del social-darwinismo volgarizzato, molto semplificato, che ha una tale importanza. Grazie. Professor Corsini, volevo parlare? No. Dicevo che volevo un po' riprendere l'attenzione sul periodo dal 71 al 73, sulla caduta dell'Hohenwart, ministro del ministero AFP, perché mi pare che sia il momento cruciale proprio di tutta la politica interna dell'Austria e anche per quanto riguarda il movimento liberale. E io direi che con la riforma centralistica del 73 l'Austria ha fatto un grosso passo in avanti nelle istituzioni liberali. La palla di piombo al piede di un problema che, fra il resto, io dico era come quello della quadratura del cerchio, perché mettiamoci nei panni dei governi e anche di Francesco Giuseppe a risolvere questo problema dei rapporti fra i Länder e i regni dell'impero e il potere centrale era un problema come quello della quadratura del cerchio, un problema insolubile e non soltanto per la questione nazionale, secondo me, perché e la resistenza, forti resistenze al centralismo sono venute anche proprio dai Länder di lingua tedesca, sì, sì. Fortissime. Basterebbe pensare agli avvenimenti del 68, ero proprio anche per le leggi scolastiche, ero la rivolta, l'abbandono da parte dei deputati tirolesi conservativi del Parlamento viennese. L'abbandono proprio, che poi ha portato alla crisi e allo scioglimento e all'indizione delle nuove elezioni. Ma il passaggio dal federalismo al centralismo è stato visto con molte preoccupazioni da parte dei Länder di lingua tedesca e anche da parte delle minoranze eteronazionali di altra lingua, perché si pensava che il centralismo parlamentare corrispondesse in sostanza ad un centralismo amministrativo e a una prevalenza delle strutture dello Stato, vabbè, sulle autonomie regionali. Però, almeno, vabbè, visto da questa angolatura trentina, domani ne parlerò, vabbè, i liberali trentini si sono dimostrati nettamente favorevoli alla riforma centralistica. E non soltanto, come si dice sempre, va bene, vero, per fare il ponte e saltare Innsbruck, dove i contrasti erano più violenti, anche perché tra vicini, va bene, ci sono sempre modi, va bene, vero, conflittuali e forze conflittuali maggiori che tra lontani. Non soltanto per quello, proprio per una scelta politica, perché l'ammodernamento, la modernizzazione dello Stato poteva venire soltanto da un potere legislativo centrale capace di difendere i criteri della libertà e la grossa via del progresso che si era, civile e anche economico, che si era, avevano già iniziato. Quella, per quanto mi pare il punto, avevano, in cui il liberalismo, inteso forse non come partito, avevano, neanche però così eccessivamente in un modo vago e soltanto di natura intellettuale o morale o religiosa o d'altro, partito come concezione dello Stato, mi pare che sia stato il momento in cui il liberalismo nell'impero, nell'Austria, è stato vincitore ed è stato anche, ha toccato il suo vertice. È stato vincitore e ha toccato il suo vertice, perché se la legge fondamentale del 67 era che aveva introdotto alcune garanzie fondamentali e formidabili anche per le minoranze linguistiche, tanto è vero che si sono poi sempre richiamati a quella. Era la legge del 61. Era la patente del febbraio del 61, con gli statuti regionali e con i regolamenti regionali, che costituiva veramente la palla di piombo e il freno su questa via della costruzione di uno Stato, di uno Stato moderno. Poi ho subito finito. Non dimentichiamoci che però neanche le minoranze nazionali erano tra di loro concordi, non soltanto fra italiani e boemi, ad esempio, ma anche tra gli stessi italiani. Perché laddove, come nel Tirolo, gli italiani erano una minoranza, adesso sì, per fare il ponte sopra Innsbruck, guardavano più facilmente a Vienna, ma dove invece gli italiani erano in maggioranza, volevano la conservazione rigida e gelosa delle autonomie regionali, perché con quei poteri legislativi e amministrativi delle autonomie regionali riuscivano a difendersi, specialmente ai confini orientali, contro l'avanzata degli slavi. E per finire, un'ultima questione: c'erano poi casi in cui la soluzione di queste questioni in un land non poteva essere trasferita sic et simpliciter e presa come modello di soluzione per tutti gli altri. quando nel 1901-1902 c'è l'ultimo tentativo per concedere l'autonomia al Trentino, fatta da Katrin, da Grabmaier, e da Ponci e da Brugnara qui a Trento, c'è l'opposizione. E che cosa dicono le minoranze ceche? Vorremmo che gli stessi argomenti che i tedeschi adoperano per negare l'autonomia al Trentino lo insegnassero ai tedeschi. E l'esempio di Zilli che tu hai citato, che è stato determinante anche in sede parlamentare, anche lì non si poteva poi trasferire come modello unico per la soluzione del problema dell'insegnamento bilingue o in un'altra lingua nelle scuole di tutti i regni e di tutti i paesi. Io sono arrivato a questa conclusione, un problema della quadratura del cerchio. Una sola frase. Certo, il liberalismo ha prodotto tutte quelle iniziative culturali, etiche, di sviluppo, di modernizzazione, senza la quale la moderna sarebbe impensabile. Però il Besitzstand, sottolineato da lei come sintomo di una ultima fase, certa decadenza, mi pare che sembri raccontare tutta una continuità di questo movimento, perché già la società napoleonica, la società che si crea nel codice civile di nuovo ordine, è una società di possidenti in cui il grado di partecipazione politica dipende dalla somma degli acquisti dei possedimenti acquistati. Certo, si lascia l'identità. Das ein Besitzstand. Und dazu gibt es noch einen Besitzstand der Staaten. Strade von Maastricht. Das natürlich auch, ja. England hat es ein grande Commonwealth, später Commonwealth. In questo senso si può. In questo senso si può anche dire che appunto Pietro Leopoldo era un vero liberale perché voleva che regnassero i possessori. Cioè, nel suo progetto di Costituzione è che i possessori deve essere soltanto un... tutti i sudditi devono formare uno stato, un ceto di possessori. Cioè, in Costituzione secondo la giustizia sociale contro la c'è anche questo... c'è anche i possessori devono essere i... devono guidare ed è interessante che adesso c'è la signorina, la signora Massol che la vedo molto presente. Coraggio. Volevo solo aggiungere Vito Stretti, che ha detto che i liberali hanno sì sentito il problema sociale, era proprio collegata l'idea liberale a quell'idea della possidenza, no? Già Kant aveva detto che per essere un cittadino, tranne le condizioni naturali che sono di non essere un bambino e non essere una donna, bisogna avere una certa possidenza, un vestito. Yeah. Può anche essere un artigiano e una bottega, sì. Ma uno per essere liberale deve essere possidente. Deve essere libero anche. Sì, libero, sì. Una alla volta. Niente conversa. Sì. La tesi del Rosmini, che la proprietà è l'espressione. Sì, ma guardate, non credo che sia un grosso equivoco. Perché in tutto il costituzionalismo medievale è uno ha un diritto unicamente perché paga le tasse e il Parlamento serve soltanto a controllare il re nel modo con cui spende le imposte che percepisce. Quindi non è un punto di snodo di passaggio, ma il punto di partenza è questo. Quod omnes standit, ab omnibus compro pari debet. E se io vengo toccato dal governo, dal re, nella mia borsa, c'è la distinzione nel Medioevo chiarissima tra al re spettano i palazzi e al singolo la proprietà. Il re non può violare la proprietà privata, se viola la proprietà privata ha bisogno del consenso e quindi solo chi tira fuori i soldi ha diritto di essere rappresentato. Ha finito il suo intervento, signora? Auguri, Ulrich. negativ gegen den Sozialisten angreifen werden. Die Sozialisten sagen, die liberalen Freiheitsvorstellungen bleiben auf dem Papier, wenn ja nicht die materiellen und kriminellen Schaden. Man hat den Arbeiter Delitzsch oder Kehl-Kurdenbock, den Arbeitern gesagt, die in den Nationalverein eintreten wollen. Die sollten lieber erst einmal über Arbeiter immer die Vereine und deswegen Wirtschaftsverhältnisse sich in die Lage versetzen, Politik zu treiben. Das andere sei im Grunde auch nur Schaum stehen. Ist es auch ein Element des Realismus einfach dabei, was von den Sozialisten sehr positiv anerkennt in ihrer Kritik, was aber natürlich auf Realismus seitens einer liberalen Gesellschaft ist, in der zum Beispiel der Besitz los auf dem flachen Land durch seinen Grundbesitzer außerordentlich tyrannisiert wurde. Man muss das auch sehen. Der Besitz wurde war in der Hand, gerade des Großgrundbesitzers. Die Unabhängigkeit der Beamte, der von Bismarck weggejagt wurde, konnte opponieren, weil er sich auf sein Gut zurückzog. Das war eine gewisse Garantie in dem Weg. Und das war auch einfach total realistisch. Wir sollten das nicht so rasch, diese Gleichung, diese bösen ganz und gar auf Besitz von liberalen Erleben. Da ist auch viel politischer Realismus daran. Ich wollte dann nur ganz kurz eine Ergänzung bringen. Die Niederlage der österreichischen Liberalen auf dem Gebiet sozialer Frage muss man auch wohl mit in einem Zusammenhang sehen. Es gelang den Klerikalen durch den Antisemitismus in unerhörter Weise die städtischen Unterschichten, die knapp über dem Proletariat standen, zu mobilisieren gegen die Liberalen. Wir durften die antisemitische Karte der katholischen Bewegung als eine der Ursachen des Niedergangs der liberalen Parteien in Österreich nur nicht unterschätzen. Sicher spielt. Stimme ich Ihnen zu. Weil viele Juden in der Partei, die ganze soziale Kultur Österreichs, auch die liberale Kultur, liberale Presse, spielt auch schon jüdische Konsens. Das ist die jüdische Einwanderung nach Österreich. Non conversazione. Finito? Am Beginn des 20. Jahrhunderts. Ja, also zwischen 1900 und dem Ersten Weltkrieg. Und natürlich gibt es gleicherweise für Belgien. Gibt es da irgendwie eine allgemeine Erneuerung, wie es auf der geistig-kulturellen Ebene? Österreich hat ja den Liberalismus in diesem Jahrhundert noch sehr wichtige Gestalten geschenkt, das Nationale oder auch so. Aber ist das, abgesehen von der universitären, theoretischen, irgendwie durchgeschlagen? Ja. Darf ich gleich antworten? Diese Frage kann man eigentlich mit Nein beantworten. Es gibt diese kleine Gruppe der Fabians, die englischen Fabians nachahmen. Der spätere Bundespräsident Heinisch gehörte da dazu. Es gibt die berühmte Grenzenschule, es gibt die Filipowitsch, es gibt Sozialpolitiker, die aus dem Liberalismus kommen. Gerade Sie sind ja auch ein Beispiel dafür, dass die soziale Frage eben nicht völlig vernachlässigt worden ist. Aber eine breitere Resonanz hat das nicht erhalten, weil auf der einen Seite die Nationalitätenfrage und auf der anderen Seite die beiden großen, von wirklich bedeutenden Volksführern organisierten Massenbewegungen der christlich-sozialen von der Lueger und der Sozialdemokraten unter Viktor Adler hier das Feld vollkommen beherrscht haben. Diese ganzen Versuche, die finden ein gewisses Echo bei der josephinischen Bürokratie, die aufgeschlossen ist neuen Ideen, die den Staat erhalten will. Und hier darf ich vielleicht noch etwas sagen, die Bürokratie bis zum Schluss, und das war so ähnlich auch bei der preußischen Bürokratie, war eben der Überzeugung, wir allein sind die Professionals der Politik. Noi siamo gli unici che sanno fare la politica, dicevano i burocrati. I partiti sono gente dilettanti, corrotti, maneggioni, insomma, gente della pura demagogia, quelli che veramente sanno come governare, che l'hanno imparato, studiato giuridicamente, hanno fatto il loro tirocinio, questi sono i burocrati. Questi sì, la gente dei partiti venne disprezzata un po', specialmente quelli dei partiti nuovi di massa, quelli si corrompono dandoli decorazioni, titoli, eccetera, ma i veri professionisti della politica, secondo l'idea della burocrazia, erano loro, che conoscevano anche tutti i problemi della monarchia, perché avevano cominciato nella Bassa Austria, erano poi andati nella Galizia, poi in Boemia, poi nel Trentino, poi in Dalmazia, avevano conosciuto tutti i problemi, vedevano secondo loro idee, e infatti vedevano le cose più in grande, mentre i politici erano sempre rappresentanti di interessi locali, personali, di questa e quella ditta, di questa e quella grande impresa, eccetera. Questo bisogna anche capire se si giudica, se si vuole giudicare quella grande sopravvivenza del Hofratzliberalismo, come l'ho detto. Sono le 18 e 11 minuti, abbiamo ancora due interventi. Vogliamo chiudere alle 18:30 o alle 19? Perché ci sono molti che hanno l'auto. Perché hanno l'auto? Volevo dire una cosa anche io. Allora, tre interventi. La signora. Molto brevemente, volevo richiamarmi all'ultima parte della relazione che sto osservando. Un problema che appena accennato, ma mi pare si colleghi a quella famosa quadratura del cerchio di parlare sul corso, non c'è il problema nel rapporto centralismo federalismo. Il problema è la concessione di una quinta Puglia come suffragio e poi del suffragio universale. Sì. C'è il problema elettorale, che effettivamente, e mi pare che non debba essere valutato nelle discussioni che suscita il Parlamento, non deve essere valutato sulla base di scontri ideologici o di programmi sociali più o meno aperti, ma si trattava eventualmente di riuscire attraverso il suffragio universale di immettere nel Parlamento delle forze caratterizzate da una mentalità internazionalista come la porta cristiano sociale o come la porta socialista, nella ricerca di quella unità che le precedenti forze politiche non erano riuscite a trovare, cioè sarebbe stato un superamento di quella frattura derivante da diverse nazionalità su un'altra base, su una base diversa. Per cui queste discussioni vanno proprio interpretate attraverso la componente nazionale, accanto naturalmente a quella ideologica e economica. Cioè questa mancanza, come parlava la signora Marcoli, di una unità in senso nazionale, non esisteva una nazionalità austriaca, si cercava di raggiungere, almeno dal punto di vista del funzionamento del Parlamento, attraverso queste forze che avevano questa ideologia internazionalista. Era un'osservazione. Era un'illusione, perché i nazionalisti si sono, come ha detto Viktor Adler, il fuoco ha preso anche la nostra casa, cioè il fuoco del nazionalismo ha preso anche la casa del socialismo, ma da quella posizione si è verificato una collaborazione fra la alta burocrazia e la socialdemocrazia, e nessuno l'ha saputo meglio di Luega, che ha parlato della kaiserlich königlich privilegierten österreichischen Sozialdemokratie, della KK privilegierten österreichischen Sozialdemokratie. Sozialdemokratia. Sì. Ma io sono brevissimo, proprio due parole, perché non solo per ragioni di tempo, ma anche perché non vorrei poi nemmeno interrompere questa interessante discussione sulla relazione del professor Vanduska. Invece volevo soltanto appunto sottolineare l'estremo interesse della comunicazione del dottor Dumoulin per ricostruire una vicenda culturale della quale sappiamo molto poco. A me personalmente, per esempio, è interessato molto quelle notizie che Dumoulin ci dava a proposito dei rapporti, degli scambi tra questo circolo della Valais e ambienti di giuristi italiani. E da questo punto di vista, per esempio, l'accenno che faceva Laurent è piuttosto interessante, non ultimo per un aspetto che può essere un'ipotesi che andrebbe verificata, cioè per la funzione che questa cultura giuridica di ambiente belga ha avuto nel trasmettere, nel far circolare in Italia invece la cultura giuridica tedesca, non sempre direttamente conosciuta, ma spesso conosciuta attraverso le traduzioni. Quale fosse l'importanza poi della diffusione di questo tipo di cultura, per ragioni di tempo non è il caso evidentemente di precisare, basta soltanto accennare che tornando all'esempio del Laurent, che il Laurent è molto conosciuto per esempio in Italia ed è conosciuto non soltanto per il commentario al diritto civile francese e il commentario al codice, che per ragioni di fatto si spiega benissimo infatti una diffusione che c'è a Milano, che c'è a Napoli, zone che avevano applicato il codice napoleonico e che avevano, specialmente Napoli, una legislazione ancora modellata su esempi francesi. Ma il Laurent, per esempio, a Napoli è molto conosciuto per il trattato sistematico, cioè per quel trattato di diritto civile che, secondo una classificazione un po' schematica che noi storici del diritto facciamo, in qualche modo cercava di esporre il diritto francese secondo i criteri dei sistematici tedeschi e non delle code, delle esegesi francesi. Questa, ripeto, era una classificazione molto schematica. Ed è una prima sorte, per esempio, che capita anche un altro trattato molto simile a quello del Laurent, è quello dello Zaccaria von Lindenthal, che viene diffuso in Italia, sempre in traduzione francese. Tra l'altro Zaccaria von Lindenthal, insieme a Robert von Moll, è condirettore di quella tale rivista di Mittermeier di cui si parlava con altri l'altro giorno. Un altro esempio che si potrebbe fare è quello dell'Herminier. Anche l'Herminier è molto conosciuto in Italia ed deve la sua fortuna soprattutto al fatto che diffonde sostanzialmente le tesi, le interpretazioni di Savini della storia del diritto romano nel Medioevo. Problema tra l'altro questo che rimanda telegraficamente ancora ad un'altra questione che potrebbe essere ripresa anche da altri, anche pensando ad altri nomi che Dumoulin faceva, Chaloya, Mancini, eccetera, e cioè la comune matrice storicistica che noi ritroviamo in molti di questi corrispondenti e che tra l'altro si parlava l'altro giorno della Juristendominanz alla Paulskirche e che anche alla Paulskirche lo storicismo di questi giuristi è uno degli elementi che unifica posizioni molto diverse. Naturalmente qui non è il caso poi di aprire la discussione su che cosa è storicismo, lo storicismo di questi giuristi, perché come è noto è una parola abbastanza equivoca e di cui andremo molto lontano. Sì, io volevo solo pochi minuti, veramente. Volevo fare un'osservazione però in pochi minuti per quanto è possibile di carattere generale, no? Riprendendo una cosa che ha detto sì, quasi incidentalmente il professor Matteucci, cioè sull'origine medievale, detto molto in sintesi, no? Questi principi per chi possiede e governa, no? Cioè che il tramite, l'individuazione della formazione della classe politica, no? Della partecipazione politica è dato dal possesso. No? Ora io credo che in sostanza questo possa essere designato anche sotto, dal punto di vista di teoria politica, no? Sotto questo aspetto, cioè come confusione ancora esistente tra pubblico e privato, cioè quello che io vedo da autentica rottura dal punto di vista della teoria politica liberale è la distinzione tra pubblico e privato, e mi pare che il suo luogo autentico di realizzazione sta proprio dove si fa un codice civile che è solo di diritto civile, cioè il Code Napoleone del 1804, che non a caso è solo di diritto privato perché solo c'è un potere politico che garantisce e garantisce bene. Voglio dire, il fatto che nell'Allgemeines Landrecht russiano ci siano delle disposizioni di diritto pubblico è, rispetto a quel codice del 1804, un segno di ritardo e di arretratezza dell'affermazione dei principi liberali in questo senso qui, cioè un'ancora presente confusione di pubblico e privato, la mancanza di individuazione della necessità di un codice civile e di un potere politico. E a livello di teoria politica nell'Ottocento tedesco, questa famosa dominanza dell'organicismo, no? È data proprio dal fatto, a mio avviso, la caratterizzazione ultima di più comune a tutti gli organicisti è proprio il rifiuto di pensare a una totale affrancazione della società civile dallo Stato, no? E quindi dico, la paura del perdersi di una serie di mediazioni, no? Interne tradizionali, no? Cioè le antiche, le rosse sciarpe e così via, no? Quindi ecco, la Viennese Landrecht è stato un fine, ma direi più il codice austriaco del 1811 è stato un fine ancora tra queste due realtà, perché nel codice austriaco del 1811, da un punto di vista di tecnica giuridica, di costruzione degli istituti, abbiamo l'affermazione dell'enfiteusi, abbiamo un rapporto fra diritto di proprietà e diritti reali che è ancora influenzato dalla dottrina del diritto comune medievale. Questo è il punto. Cioè. Per cui dico, c'è una distanza, un enorme, un abisso, dico, fra l'affermazione pura del principio del codice civile del 1804, libertà assoluta della proprietà, autonomia contrattuale, e il codice Martini del 1811, cioè questi sono sintomi, voglio dire questo, chi possiede governa, dico, che ha arretratezza rispetto all'affermazione del principio e non all'affermazione del principio. Allora, io sono d'accordo. Possiamo togliere la seduta? Credo di sì. Grazie. Ringrazio tutti gli intervenuti. Io però non sono d'accordo.